Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Lo festeggia, chi dice ma non ci penso neanche, figurati, è tutta una trovata commerciale di marketing, chi vorrebbe festeggiarlo, ma ahimè non sa con chi festeggiarlo. Oggi, amiche e amici, è San Valentino. Che progetti avete? Volete scrivermelo? I nostri social sono sempre a vostra disposizione, ma soprattutto a disposizione oggi abbiamo Luca Mazzucchelli, psicologo, psicoterapeuta, che è qui in studio con me. Eccoci. Ciao Luca. Oh, buon San Valentino. Anche Nicoletta. Tu hai festeggiato? Festeggiato ieri, mi sono portato avanti il gioco d'anticipo perché sono a 14. Oggi, stasera sarebbe troppo casino secondo me in giro, quindi... È vero, però senti, il San Valentino, al di là del fatto che è diventato un po' una festa, per cioccolatini, fiori, tutti siamo contenti, certo, è anche un po' un'occasione per, magari con un sorriso, valutare la nostra relazione di coppia. Oppure, chissà mai, un'occasione per fare pace, è vero, una novità, per far vedere alla nostra compagna, al nostro compagno, che siamo ancora quelli di prima. È vero, sono d'accordo. Per tanto tempo magari, no, siamo stati nascosti, ci siamo un po' trasformati, e invece, pam, effetto speciale, oggi arriviamo e diciamo, sono io. Sono d'accordo, no, anche perché sai, dobbiamo ricordarci di mettere la coppia al centro della nostra vita, quindi San Valentino, secondo me, deve essere un po' un pretesto per ricordarci di fare più spesso queste cose, di dedicare più spesso tempo al nostro partner. C'è chi dice, beh, che bisogno c'è di un giorno, bisogna avere, certo, festeggiare San Valentino 365 giorni. Certo, si parte da uno, sì, diciamo così. Però Luca, diciamo la verità e parliamo di coppie un po' collaudate, sì, quotidianità... Certo, poi fa il suo lavoro e quindi ci sono una serie di compromessi, tante altre urgenze. Però bene, dai, oggi ricordiamoci e cerchiamo di ricordarcelo anche più spesso quanto è importante nella nostra vita, per far girare bene tutto quanto, anche sul lavoro, nelle amicizie eccetera, riuscire a vivere in una relazione sentimentale che sia quantomeno serena. È fondamentale. Perché se noi abbiamo una vita di coppia serena, tutto il resto ci sorride, dai, è vero, no? Siamo in equilibrio, sì, anche perché vuol dire che se noi stiamo bene nella coppia vuol dire che siamo già in equilibrio con noi stessi. è più facile dai, quando tutto ci va male, se però la vita di coppia è un punto solido, noi ci sentiamo più forti per affrontare anche le difficoltà del lavoro e di tutti gli altri ambiti di vita. Io leggo il pensiero dell'ascoltatrice, o mio ascoltatore, che dice qua è tutto bello, però poi bisogna vedere, no? Ci sono rose e fiori, tutti noi sappiamo che l'amore è meraviglioso, se sei innamorato tutto è rosa, tutto ti va bene, e però poi si litiga, certo, ci sono i figli che possono creare problemi, c'è il bilancio familiare, no? da controllare, insomma è tutto in salita, ma... Attenzione, ci sono dei trucchetti. Esatto, degli strumenti che possono agevolare, diciamo. Allora, tu adesso devi fare il nostro coach. Dai, va bene, perché proviamo. Le cose che tu ci racconti per la nostra relazione di coppia, in realtà, anche se non abbiamo un fidanzato, una fidanzata, siamo single, felicemente, certo, single, certo, le possiamo utilizzare per applicare in altri rapporti. Assolutamente, colleghi, sì. Sono lavoro. Sempre relazioni, no? Bravo. Diciamo, sono sempre relazioni. Allora, io vengo a scuola da te. Dai, però io faccio il coach, però voi dovete poi fare i bravi allievi, quindi mettere in pratica le cose che io dico, perché sennò non vale. E soprattutto scrivere sulle nostre pagine. Bene. Che cosa avete fatto, che cosa pensate, siete d'accordo, non vi va. Allora, guarda, io direi, prima cosa, tu prima parlavi di litigi, questioni, io vorrei dare come primo strumento uno strumento che è quello del parcheggiatore, che serve per comunicare in maniera più efficace e in maniera più costruttiva. Cosa c'entra il parcheggiatore con la vita di coppia? Allora, funziona in questo modo, il gioco del parcheggiatore. Tu immagina di essere un parcheggiatore che ha due automobili e un unico box. Bene, la prima automobile è parcheggiata dentro il box e la seconda automobile invece invece è fuori dal box e il tuo compito, il gioco, consiste nel inserire l'automobile 2 da fuori il box dentro il box. Allora, il buon parcheggiatore sa che per fare questa operazione prima deve far uscire l'automobile parcheggiata e una volta che il box è vuoto, allora può far entrare l'altra automobile. E qui adesso l'ascoltatore si starà chiedendo: ma che cosa c'entra tutto questo con una comunicazione efficace all'interno del mio rapporto di coppia? In realtà c'entra molto, perché tutti noi in realtà abbiamo delle automobili e un box quando parliamo con le altre persone. Il box nella fattispecie è la testa del nostro interlocutore, è la mente dell'interlocutore. Le automobili in realtà sono le idee, i valori, le soluzioni, i bisogni, i comportamenti che pensiamo giusto fare o non fare. Ecco, allora vedi, quando tu parli col tuo partner devi pensare a fare il parcheggiatore. Sai che nel suo box, nella sua mente, ha delle idee che prima di tutto tu devi fare uscire, devi fare emergere, e quando l'automobile è fuori dal box, allora può venire il tuo turno di affiancare le tue idee, di affiancare le tue tentative, soluzioni, di affiancare i tuoi comportamenti, perché altrimenti tu stai spingendo delle idee, dei suggerimenti all'interno di una testa che non è pronta a recepire il tuo messaggio. Nel concreto, com'è che si traduce tutto questo? Vuol dire prima ascolta e poi parla, prima fai parlare e dopo proponi. Allora, io con mia moglie, possiamo dirlo, per San Valentino ho fatto un po' il parcheggiatore, perché le ho detto: tesoro, cos'è che vuoi fare stasera? Cioè, non è che sono andato io da lei e gli ho detto: oh, stasera facciamo questo. Gli ho detto: tu cosa vorresti fare stasera? Ed ecco che esce dal box le sue idee. Potremmo andare al cinema, oppure a cena, oppure fare quest'altro. Bene, dopo che lei propone, allora posso arrivare anche io eventualmente con le mie controproposte. Non sto dicendo che anche tu devi fare per forza il parcheggiatore in occasione di San Valentino, ma quando le cose si fanno un po' difficili, quando devi prendere delle decisioni importanti, fare il parcheggiatore può salvarti la vita, perché altrimenti vai a fare uno scontro, un tête à tête dal quale rischi di uscirne male tu e il tuo partner, e invece in questo modo ci si può parlare in maniera più aperta e chiara. Luca, mi piace un sacco la cosa del parcheggiatore, perché noi possiamo utilizzarla anche con i nostri colleghi di lavoro, con il nostro capo ufficio, la possiamo utilizzare in diversi ambiti. Sì. Senti Luca, allora non si può passare San Valentino col muso arrabbiati, però giusto, ci sono, però capita di litigare, capita, no? Capita, ecco, capita, l'amore capita. Non è bello se non è litigarello, questa esatto, l'abbiamo cantata tutti, la conosciamo, ci sono però litigi e litigi. Sì, sicuramente. Intanto partiamo da qua, perché ci sono, litigare può essere una straordinaria occasione di crescita, certo, ma un litigio fatto male, sì, più litigi trascurati, mal gestiti, sì, alla sì, fine sono una ruggine e incrinano il esatto, rapporto, sono un po' come le placche. Sì, è il tema della gestione. Aterosclerosi sulla, brava, esatto, che poi alla fine no, possono essere veramente dannose e pericolose, sì, per il nostro cuore. Quindi non facciamo sedimentare la ruggine. No, no, litighiamo no, bene, litighiamo. Certo. Certo, perché certo, tu come psicoterapeuta... Per forza, è la gestione del conflitto, bravo, no? Nei litigi che è inevitabile, è per forza inevitabile, no, la gestione del conflitto. Il tema è gestire il conflitto in maniera utile e a una risoluzione, a una crescita, invece che restare imprigionati nel veleno del litigio. Un'indicazione, secondo me, importante da tenere a mente quando litighiamo può essere quella di iniziare le frasi con la parola io invece che con la parola tu, perché se entriamo nella guerra del tu, io inizio a dirti: sei tu che non hai fatto questo, e tu mi rispondi: no, sei tu che non hai fatto quest'altro, e ma tu dovevi pensare a questo, e ma tu non hai pensato a quest'altro. La guerra del tu, ricorda un po' il telefono occupato, no? Che non serve a niente. Bravo. Allora è switchare, si può dire switchare, passare, cambiare l'inizio dell'attacco della frase da tu, che è accusatorio, che mette l'interlocutore sulla difesa, eccetera, eccetera, iniziare con io. Quindi iniziare con io ci aiuta a mettere al centro quelli che sono proprio i nostri bisogni, i nostri problemi, le cose che io non ho capito. E se tu inizi un dialogo, un litigio con io, allora è più facile che l'altro ti ascolti meglio e che la cosa, che la discussione sia messa un po' in discesa. Luca, quindi si può imparare, questo vale per tutte le età, a litigare meglio? Si può imparare, si deve, ecco, si deve, signori. E si deve anche imparare a fare pace. È vero, e soprattutto, guarda, la grande difficoltà che noi tutti abbiamo col fare pace è che significa entrare in contatto con le nostre vulnerabilità, no? Chiedere scusa vuol dire ammettere una propria vulnerabilità ed è un atto di coraggio da un certo punto di vista, entrare in contatto con le tue fragilità e comunicarle all'altro. Però guarda, se c'è una cosa che io ho capito in tanti anni di terapia, coppia, lavoro, corsi eccetera eccetera, è che per essere felici, Nicoletta, ci vuole coraggio. Per avere una coppia felice, il primo ingrediente, adesso al di là, no, del coach, strumenti, sì, eccetera, no, eccetera, guarda, il primo ingrediente è il coraggio, cioè è il coraggio di affrontare quelle situazioni all'interno della coppia che ti spaventa anche solo il pensiero di sederti lì con tuo marito, con tua moglie e dire guarda tesoro, dobbiamo parlare di questa cosa. Però se tu non affronti quelle paure e quindi se tu non hai il coraggio per affrontare quelle paure lì, succede che rimane un non detto, un sospeso, una macchia d'olio che gradualmente si allarga e poco alla volta ti mette spalle al muro. Grazie, grazie a Luca Mazzucchelli, grazie a voi, buon San Valentino, anche se non festeggiate San Valentino, una parte del cuore dell'amico è con voi. Anche il mio, ciao. Grazie, grazie a Luca Mazzucchelli, noi ci sentiamo come sempre a mezzogiorno per le notizie che arrivano dal mondo della ricerca e poi ci vediamo per la diretta Facebook 349-238-6666. Il nostro numero per mandare un messaggio vocale e raccontarci il vostro San Valentino, perché mai ho la vostra ricetta per una coppia felice. Dillo all'amico, io vi aspetto. Buona giornata.